ascoltate la parola che il Signore ha pronunciato per voi, o casa di Israele. Così dice il Signore: non imparate la condotta delle nazioni e dei segni del cielo, non spaventatevi, perché di essi hanno paura le nazioni. Sì, la credenza dei popoli è vanità. Infatti, è legno che uno taglia dal bosco, prodotto di mano d'artefice per mezzo dell'ascia. D'argento e d'oro lo adornano, con chiodi e martelli lo rafforzano perché non si muova. Essi sono come spauracchio nel cocomeraio, infatti non parlano. Bisogna portarli perché non camminano. Non abbiate paura di essi, non faranno male, né fare del bene è il loro potere. Nessuno è simile a te, o Signore. Tu sei grande, e grande è il tuo nome, potente. Chi non ti temerà, o re delle nazioni? Sì, ciò a te è dovuto. Infatti, tra tutti i sapienti delle nazioni e in tutti i loro regni, nessuno è simile a te. Con la stessa cosa, essi fanno fuoco e diventano stupidi. La dottrina delle vanità è legno. Argento laminato portato da Tarsis ed oro da Ofir, prodotto d'artefice e di mani d'orefice, porpora e scarlatto è il loro vestito. Tutti essi son lavoro di sapienti. Ma il Signore è Dio vero. Egli è Dio vivente e Re eterno. Davanti al suo sdegno trema la terra e non sopportano le nazioni la sua collera. Così direte loro: gli dèi che i cieli e la terra non hanno fatto spariranno dalla terra e di sotto il cielo, tutti. Egli ha fatto la terra con la sua potenza, ha stabilito il mondo con la sua sapienza e con la sua intelligenza ha steso i cieli. Quando emette la sua voce è un rumoreggiare di acque in cielo. Fa salire nubi dall'estremità della terra, produce lampi per la pioggia e fa uscire il vento dai suoi ripostigli. Si stupisce ogni uomo quando riflette, si vergogna ogni orefice per il suo idolo, perché menzogna è la sua fusione e spirito non c'è in essi. Essi sono vanità, opera ridicola. Nel tempo della loro visita periranno. Non è così la porzione di Giacobbe, perché lui plasma ogni cosa, ed Israele è la tribù della sua eredità. Signore degli eserciti è il suo nome. Raduna dal paese la tua mercanzia, tu che abiti nella fortezza. Così, infatti, dice il Signore: eccomi a scagliare lontano gli abitanti del paese questa volta. Farò loro provare angustia affinché ritrovino se stessi. Guai a me a causa della mia ferita, incurabile è la mia piaga mentre io dico: ebbene, questo è il mio male, lo sopporterò. La mia tenda è distrutta e tutti i miei tiranti sono spezzati. I miei figli sono andati via da me e non ci sono più. Non c'è più chi raddrizzi la mia tenda e rialzi i miei teloni. Sì, Sono istupiditi i pastori, perciò non ricercano il Signore. Per questo non hanno successo, perciò tutto il loro gregge è stato disperso. Una voce è stata udita. Ecco, viene un frastuono grande dal paese del nord per ridurre le città di Giuda una devastazione, una tana di sciacalli. Io so, Signore, che non è in potere dell'uomo la sua via. Non è in potere dell'uomo andare e stabilire i propri passi. Correggimi, o Signore, ma secondo giustizia, non secondo il tuo sdegno, per non ridurmi al nulla. Riversa il tuo furore sulle nazioni che non ti conoscono e sopra le famiglie che non invocano il tuo nome, perché han divorato Giacobbe, l'hanno divorato e consumato, ed il suo pascolo hanno devastato.